E capunque. Vabbè. Benvenuti. Episodio numero... Ah, cazzo, mi sono scordato di chiederti. Vabbè, buon Natale. No, episodio numero 38. Potrebbe essere, no? Probabile, sì. Dai, yeah. Sì. E si spera allora... che sia 38. Siamo localizzati ancora diversamente, però abbiamo recuperato... E ho recuperato solo Andrea e Jacopo, che avete già sentito. E stasera parliamo di... Lo dite voi, io non posso dirlo. Troppo ricordo. L'ascesa di Sky Colson. Di Sky Colson, certo, sì. E, non ci siamo messi d'accordo, facciamo spoiler o non facciamo spoiler? Direi prima no, poi sì. Comunque, come avete intuito... Come avrete intuito, Lando non si riprende il Falcon, perché sennò Andrea doveva fare la puntata da solo. No, invece Andrea sì, la... cioè, succede spoiler. Spoiler! Però Andrea ha perso la puntata perché succede a metà. Andrea... Esatto, Andrea... Ci ha quasi preso, però ci arriveremo. Intanto non parliamo di spoiler veri. Spoiler! No, spoiler! Lando nel film... È molto difficile non fare spoiler in una puntata di Star Wars perché parte subito tipo super in media stress, quindi diciamo che... Facciamo spoiler degli altri Star Wars. Va bene, in che senso? Vabbè, non c'è molto da dire. Questo è il terzo capitolo della terza trilogia, sì, ed è uscito una settimana fa, più o meno, ed è diretto di nuovo da J.J. Binks. Non stato JJ. Mentre il secondo, come era diretto da Rian Johnson. Mentre il primo, di nuovo, JJ. E basta, ci sono gli stessi protagonisti, no? Sì. E, sono gli stessi protagonisti, qualche aggiunta, qualche mancanza, cioè quelli crepati, e, forse. E, nella vita vera. Nella vita vera, esatto, neanche. Purtroppo neanche. E, in realtà non posso dire niente di trama, perché... Cosa... Vabbè, allora, se vogliamo spoilerare quello prima, la trama è 2 anni dopo circa il capitolo, cioè l'episodio 8, cioè il secondo della terza. Sì, l'unica cosa che si può dire è che Rey si è addestrata, i ribelli continuano a fare ribelli, Kylo Ren continua a picchiare e uccidere gente a caso per cercare qualcosa, che non si può dire perché a questo punto è uno spoiler, e basta. Cioè, l'unica cosa che si può dire è che questo finalmente è il film in cui finalmente... Diciamo che è il film che tira, cioè chiude tutte le sottotrame, spiega tutte le cose che deve spiegare e chiude tutti i 9 film in un colpo solo, in teoria. E basta? Boh, sì, è una storia... Cioè, effettivamente, cosa si può dire se non so spoilerare niente? È molto storia... triste, perché comincia subito dicendo... Esatto, cioè, già la prima parola che legge è uno spoiler. Allora, facciamo così, diciamo, è una storia più su Rey, incentrata più su Rey, forse, e su Kylo. Sì, sicuramente, su Rey e Ben... Sì, su... magari, esatto, magari in altri capitoli c'era molto più Finn, molto più Poe, però qui sono... Sì, qua Finn in particolare non esiste, grazie a Dio, visto che il secondo film, tutti quelli a cui chiedo se gli è piaciuto, sì, no, mi dicono, ah, è un bel film, e io, ma la parte del casino, e lui, e loro, ma c'è una parte su... Non c'è, esatto, non esiste la parte del casino. Sì, diciamo, poi mi dico, qui, ma rega, allora, è il metafilm, ok, allora non mi è piaciuto. Allora, quella parte, diciamo, va salvata per il messaggio che cerca di dare, però è un po' la merda. Qui ha una bella scena, fin ha una bella, un bel discorso che fa a metà del film, di circa un minuto, però per il resto non esiste, non è che c'è un arco particolare, cioè... non è cambia. È lo stesso uguale anche Coso, anche Poe, che nel secondo... aveva una caratterizzazione qua un po'... Qui è un po' più piatto, sì. Non come Finn, però sicuramente c'ha meno arco narrativo, meno personaggio. È lo stesso che vi aspettavate che la tizia, l'amorosa di Finn, ci fosse? quella che è nel secondo, quella che nel secondo ha un ruolo reale, qua non esiste. È quale delle tante? Esatto. Yeah. È quella Rose. Sì. E basta. Qui... Ah, basta, che altro? No, allora è rimasta la stessa... sì, ci sono tutti adesso, senza stare a dire cazzate. Ci sono tutti, tutti i personaggi di tutte le di tutti i Star Wars precedenti, praticamente, tranne forse Yoda che non compare. Certo, però in realtà... esatto, l'unico personaggio che non c'è è Jar Jar. Gli altri ci sono tutti, ma tutti, che sia una voce, che sia una presenza, ci sono tutti. Mamma mia. Basta, adesso cominciamo a spoiler. Ora spoiler, esatto, basta perché... No, se no è complicato, perché la prima parola che dicono è l'imperatore, e quindi già è uno... E tra l'altro c'è lo stesso Ian Mac... Come cazzo si chiama? Di Armin, non lo so, che è quello che faceva l'imperatore. Sì, che ha sempre fatto l'imperatore, mi sa, quando c'era... Sì. E... Aspetta, mi stanno chiamando. Questo lo tagliamo poi in post. No, l'unica cosa che rimane, che cambia appunto, è che il conflitto lato chiaro lato oscuro si sposta di nuovo su Impero Ribelli. E l'imperatore esiste ancora e niente, ed è uguale tale quale il sesto episodio rivisitato, come il settimo era poi il quarto, questo è al pari del sesto. Che altro posso dire? No, allora, quindi la storia appunto diventa ribellione contro impero, di nuovo, come prima. E l'unica differenza è che abbiamo i due jolly che sono appunto... No, non è vero niente, perché alla fine Kylo Ren e Rey sono fondamentalmente i Darth Vader e Luke, quindi in realtà non cambia veramente una sega. E segue le orme del sesto film, di fatto. E, come dicevo, appaiono tutti, ma tutti, nel senso che appunto c'è Carrie Fisher, anche se è crepata, ops. C'è Luke, anche se è crepato, non nella verità, ma nel film. C'è l'imperatore, anche se è crepato. C'è Harrison Ford, che fa una scena. Ci sono tutte le voci di tutti i Jedi passati, per cui c'è anche Samuel Jackson, per dire. Ci sono tutti. Che tra l'altro dà l'idea a Rey per come sconfiggere l'imperatore alla fine. Sì, ci sono tutti. Sì, allora, come sì, siamo in zona Celando, come Andrea aveva predetto. Vabbè, ma c'era da qualche parte anche il coso. E, non c'è Ahsoka, ma c'è la voce di Ahsoka, quindi... Ahsoka, come? Sì. Ahsoka Tano? Perché JJ aveva spoilerato che ci sarà Ahsoka Tano. A sto punto poteva dire anche c'era Maestro Windu, però... Sì, infatti comunque c'è, cioè, spoiler di merda, visto che c'è solo la voce. Vabbè. E, quindi niente, ora che possiamo spoilerare, la trama funziona così. È uguale al sesto film, ma i poteri della forza sono overpowerati. È così, no, però? Sì, più o meno. È così, allora, l'unica cosa che cambia, appunto, il sentimento della ribellione, non è l'unica cosa. L'unica cosa che cambia è che è tutto su scala più grande, quindi la forza è più potente, la ribellione è su scala della galassia, non solo più piccola, l'impero è gigantesco, è su scala planetaria, come prima invece era una luna di merda. E basta, e quindi è tutto più grande, e basta, il resto è rimasto tutto come prima. Come il sesto film, lo svolgimento dello scontro finale è uguale allo svolgimento dello scontro finale del sesto film, solo ribaltato, e nel senso che chi stava in terra sta sullo spazio e chi sta sullo spazio sta in terra, però è la stessa roba. sempre è sempre lato scuro contro lato chiaro, c'è sempre l'arrivo finale della cavalleria, però è più grande ed è rimasta la stessa fregnaccia. Ora, cosa ne pensiamo noi di tutto questo? Intanto, vabbè, ovviamente il film va da Dio, e sta andando da Dio e andrà da Dio, onestamente. Vabbè. Meno è previsto, però sì. Beh, perché è previsto era tipo 800 milioni. Vabbè. Sì. Vabbè, chi è che non lo va a vedere? Ora bisogna dire cosa ne pensiamo noi, cioè quali sono i punti che ci fanno un po' storcere il naso, quali sono, se ci sono, quali sono i punti che ci sono piaciuti, se ci sono, e cominciamo da voi, che dopo se no mi insultate ed è un problema. Vai Andrea. No, premetto, prima che parla Andrea, mi sono girato durante l'intervallo, tra l'altro intervallo in un momento di merda, verso Andrea, e Andrea aveva il giubbetto sopra la testa ed era sprofondato nel sedile e stava in depressione acuta. Sì, un po', sì, nel senso mi ha fatto un po'... Cioè, molte cose non mi sono piaciute, mi hanno fatto un po' schifo, tanto da coprirmi durante la visione. Non lo so. Cosa ti è piaciuto? Partiamo da dei positivi, adesso che hai digerito. Va, veramente non troppo. Vorrei guardarlo un'altra volta, in realtà. Per farti del male, perché sei masochista. Sì, sì, sì, sì. C'è sempre la... non lo so, te l'ho detto. Cioè, no, come faccio a dire la scena senza fare spoiler, però? No, siamo in fase spoiler, puoi dire quello che vuoi, anche che alla fine succede una cosa imbarazzante. Cioè, si vedono gli orsetti di merda. No, vabbè. Questo bisognava proprio dirlo? No, peggio, sì, peggio. L'unica che non si vede sono i Gungam, perché secondo me li hanno rimossi dalla storia dei... dal canon di dal canon. Non lo so, come ha detto già Jacopo in post film, non lo so, a me mi ha dato fastidio molto la presenza forzata continua di elementi passati. Bravo, cazzo, lo volevo dire anch'io. Quella è veramente la cosa più fastidiosa. Cioè, che anche nei precedenti film c'è, ovviamente, però di meno. Cioè, quando lo vedi uno, due, tre volte, ok, senti quella cosa, non lo so, quel senso di nostalgia che c'è, comunque è piacevole. Poi quando ogni 10 secondi c'è qualcosa, a me è venuto il tumore, non lo so. Ma infatti io speravo che con la morte di Luke in quello passato, loro usassero questa morte per dare più spazio ai personaggi nuovi, invece in questo film danno meno spazio ai personaggi nuovi, è assurdo. Poi per l'amor di Dio va benissimo, però è un peccato. Quindi qualsiasi cosa, cioè quasi tutte le scene c'è qualcosa di di vecchio, insomma. C'è pochissimo di nuovo. E boh, non lo so. Per questo punto la tizia col casco sul pianeta che esplode poteva anche essere Sabine. Potevano anche metterci tutti i personaggi, tutte le serie TV, tutti... No, allora, se devo dire una cosa buona... che le parti più belle del film sono quelle che secondo me sono state rubate da Rebels. Vabbè, sì, tipo il tradimento, queste cose qua. Ah, dici Axe? Esatto, cioè quelle robe lì sono a me Rebels. È piaciuto tanto che Axe l'abbiano ucciso così, tipo la John Wick. Sì. Mi è piaciuto tanto quello, però quell'idea lì è puro Rebels, cioè quello. Ed è una bella idea perché l'avete già usata, vabbè, comunque. Va bene, dai. Te l'avevo detto. Ah, che ho visto molto molti videogames nel film. Hai visto molti videogames e film? Vabbè, sì, ha visto quello di tanto lavoro. Battlefront, tanto Kotor. Kotor. Kotor. Loro fanno quello poi, Disney è famosa per... ma in realtà l'avevano, cioè, non era più canon, quindi dice, nel senso, non tutto quello che avete visto prima non è vero, non esiste. Invece poi qua ci hanno rimesso anche quello, non so. Però anche tipo quelle storie lì, perché le ha riprese poi da Rebels, cioè il fatto che lui ha il tracciatore per il coso, il pianeta dei Sith, bla bla bla, è puro Rebels. Cioè ci mancava solo Darth Maul che usciva da dietro al coso e sarebbe stato Rebels. Beh, però hanno messo il bastone laser, quindi... sì, è la spada da doppia. Mamma mia. Jacopo. Dici. Oddio, troppa roba. Cioè, avete presente la scena dove, come cazzo si chiama, quell'arancione, Maz, va da Chube e gli dà una roba tipo di d'oro con una fascia? Sì. E quando ho visto il film, mica ho capito che cazzo voleva dire. Ho detto, tieni, questa è la parte di Leia. Ho stato a casa, ho letto un messaggio, era la medaglia. Cioè, sapete gli scherzi, cioè le battute sul fatto che Chube non ha preso la medaglia alla fine dell'episodio 4, Una Nuova Speranza, quando sì, premiano... Sì, sì, vabbè, cioè... ma ovviamente c'è due secondi, quella lì, o la capisci o... Sì, ho capito, ma per me quella scena è emblematica di tutto questo film, cioè mettere scene a caso di roba per chiudere domande che potevano semplicemente lasciare aperte. Cioè, perché dover spiegare chi è Rey? Perché dover spiegare... Perché è Rey per la ragione di trama. Perché doverci buttare Rey sul pianeta di dove ci sta Luke per fare quella scena per la citazione? Perché dover... No, perché beh, quella secondo me è palesemente molto bella. Anche mia cugina mi ha detto che quella l'ha fatto cagare, l'ho vista ieri. Perché? Cioè, no, a me è piaciuta molto invece quella scena lì. Anche perché poi quella scena lì è quella che mi ha fatto vincere la scommessa, no? Alla scommessa noi l'abbiamo vinta 3 su 4, perché Andrea per un pelo non l'ha vinta, perché alla fine... Andrea è successo a metà film quella roba lì che gli ha inculato il Falcon. Ma quello era il finale che doveva riprendersi. Vabbè, la battaglia finale lui guida il Falcon insieme a Chewbacca. Sì, ma tu hai detto lo frega, e lo frega in effetti, ma lo frega da metà film. Allora abbiamo vinto tutti e 4, va no, bene. No, ho vinto io perché finisce con la festa e i fantasmini. Per me ho vinto io con la roba imbarazzante e inquietante. Comunque, cioè, perché dover resuscitare l'imperatore? Perché dover far le navi con tutte morti nere? Perché dover fare per forza forzare cose uguali, cose riprese da altri film? Perché è sempre stato... No, così. Cioè, non devi farlo per forza. Cioè, io dopo della Jedi, dopo gli ultimi Jedi, pensavo, cazzo, avranno questa occasione per andare avanti, cioè per raccontare un'altra cosa, per fare una cosa nuova, visto che sono bruciati il Ritorno del Jedi con questo. Invece no, hanno rifatto un'altra volta il Ritorno del Jedi. Per carità, alcune scene sono fighe, cioè, tipo vedere Luke e Leia che si allenano. No, è sbagliato, perché il quarto è Una Nuova Speranza. Quello di prima era Una Nuova Speranza. Questo anche Una Speranza, è vero. Quindi è perfetto, in realtà, è preciso. Cioè, per carità, alcune scene sono fighe, tipo Luke e Leia che si allenano, a me è piaciuta, a molti ha fatto schifo, altri non mi hanno detto niente. A me è piaciuta tipo... finché non hanno fatto vedere la faccia di Leia. È vero. Beh, ma quello... Cazzo, no, ma ogni scena con Leia che sembrava la scena di Community con Chang, che usano tipo 5 secondi di Chang per fare un film di 1 ora e 20. Vabbè, comunque, imbarazzantissime alcune scene con Leia. Però, cioè, alcune scene per me funzionavano, però tipo anche, per esempio, la scena di lei che sta tenendo il trasportatore con dentro Chube, a parte il discorso che tutti muoiono e poi tutti risuscitano, a parte Kylo Ren che non se lo merita, cioè... Beh, alla fine Kylo Ren ascende, però. Sì, ascende, è l'ascesa di Kylo Ren, però... Quella scena dove lei che sta prendendo Chube e vedi Kylo Ren che si avvicina, io ho pensato, cazzo che figo... Adesso lei deve scegliere se prendere a pedate Kylo Ren o salvare Chube, che è una scelta, cioè una scelta che è figa, soprattutto a quel punto del film, dici non sai effettivamente cosa sceglierà, cosa cosa ne, insomma, quali saranno le conseguenze. E potevano farlo benissimo, invece hanno fatto quel cazzo di, come posso dire, di finta morte, di merda, solamente perché dovevano far vedere qualcosa che spiegasse perché la figlia di... Cioè, non lo so, per me non era necessario fare molto di questo film in questo modo. Però molte cose mi sono piaciute, come diceva Andrea, cioè il fatto che hanno preso roba da The Old Republic, tipo il consiglio dei Sith, tipo... Cioè, il consiglio dei Sith è una minchiata, perché quella gente lì da dove l'hanno preso? Oh, a me è piaciuto, cioè come concetto, mo non si capisce bene nel film. Esatto, cioè... Visivamente, sono persone a caso in un angolino della sala, però... Per me non sono persone quelle, per me erano tipo dei mezzi spiriti Sith, che sì, erano quelli che a un certo punto li cita. Li fai scomparire, cioè boh. Sì, quello vabbè, poi il finale veramente brutto sotto molti punti di vista, anche lei che prende le due spade, quella scena proprio brutta, per me è proprio brutta come effetti speciali anche. Poi quello che ricade. Sì, ma tutto il resto del primo ordine dove sta? Cioè, il primo ordine è come non si sa, cioè. Ci sarà una trilogia dove rimane il primo ordine. Ok, invece sì. No, vabbè, finito. No, cioè, tantissima roba veramente buttata lì senza... Però ti dirò, un'altra cosa che mi è piaciuta invece, C-3PO... Penso sia il miglior film, cioè il film dove viene usato meglio. È la spalla comica. Storia. Spalla comica, ma fatta con criterio, cioè non è che ti fa solo incazzare, cioè a me ha fatto ridere davvero, tipo quando diceva quando finirà questa agonia, era tutti noi, cioè era... Era tutti noi. Proprio... Poi vi spoiler un attimo The Mandalorian. Devi spoilerare. C'è un potere che viene usato in questo film per la prima volta, che però in realtà è stato usato prima in The Mandalorian, un potere della forza, e quindi vabbè, però fa parte della lore, perché c'è anche nei cartoni e nei cose, e anche nel gioco di ruolo, cioè. Sì, però non è spiegato bene, perché se guardi solo i film pensi che sia una cosa del lato oscuro, quindi non è, cioè, però in questo film secondo me spiegano bene, per chi non sa, per chi non l'ha visto in altri posti, insomma, spiegano bene come funziona. È molto figo. Anche il mega fulmine finale di Voldemort. Quello è una cazzata. Figo. Non è figo quello, perché? No, ma dai, ma se lo poteva far prima, allora, a quel punto. L'avrei potuto fare su Luke. Fanculo, allora cosa serve la morte nera? La spacca tutto lui. Vero. Ma il potere dei genitori, come su Harry Potter? No, non si è capito qual era il piano dell'imperatore, se averla solo lei, se averli entrambi, non ho capito bene, comunque, cioè molto confuso, tagli di scene velocissime, non si capisce un cazzo, cioè ancora ti stai chiedendo che è successo. È molto veloce. Troppe cose succedono, Rey che fa cose. Devono fare troppe cose, è troppo veloce. Ah, un'altra scena figa è la citazione di Mustafar, però con l'acqua, dove combattono Rey e Kylo... Dietro la morte nera. È tutto così. Anche quando l'imperatore apre il oblò sopra per far vedere come sta andando la battaglia. Cioè, no, però quella secondo me come citazione per me è riuscita meglio, perché è abbastanza diversa visivamente e è abbastanza diversa la circostanza, per cui dici è quasi una cosa nuova. Invece quella proprio come situazione era identica. Tant'è che pure l'imperatore lo dice, stavolta non c'hai. Non ci sta un genitore che mi può buttare di sotto. Anzi, ti butti sotto a te. Pure lo spingo io. Però non so. Tanto risale, quindi... Esatto, quindi cambia un cazzo. Prego, giusto. E Babbo Fick. Grande. Babbo Fick. Grande. Quello è piaciuto a tutti. Quello venderà anche lui i pupazzetti. Mamma mia, ce lo vedo. Ce lo vede i pupazzetti di Babbo Fick. E non so se a voi è piaciuto, perché Edoardo ha fatto cagare tantissimo, però a me sinceramente non mi ha disturbato. Pensavo mi facesse schifo, invece il bacio tra Ben e Rey... Sì, allora voglio far notare una cosa che ho fatto notare anche ieri. Lui le tocca la mano e lei risuscita. Lei lo bacia e lui muore ora. Non voglio dire niente, però allora, niente. Qual è il messaggio in tutto questo? Esatto, magari sono amici, non lo so. Sì, no, cioè a me non è sembrato un bacio del tipo mi ti voglio ingroppare, mi è sembrato un bacio del tipo... Sono d'accordo. È ovvio, cioè, è una relazione bambini, più... Anche te mi voglio ingroppare. No, no, però cioè, il bacio magari tra Leia e Han, anche involontariamente era diverso tra il bacio tra Leia e Luke, che magari Lucas non lo sapeva, però, cioè, non lo so, visivamente più... meno passionale, diciamo, meno carnale, sì. Non lo so. Non mi ha detto niente. Poveri. Che altro? Vabbè, no, non in quel senso, però... Anche che il fatto che lei alla fine dica... Ah, ecco, diciamo, più in generale sul film, molto all'alto livello, il fatto che lei alla fine dica Rey Skywalker... È bellissimo. Figo, per carità, è una cosa figa che scelga il proprio nome, che scelga... Però era pure figo se diceva Rey Palpatine per dire non importa... il sangue, per portare avanti quello che dice Luke, perché in questo film Luke lo dice, cioè lo dice chiaramente che non cioè il sangue sì, è potente, ma non è la cosa più potente, non è la cosa che importa. Sì, però mi vede Luke e Leia come se loro fossero i genitori. Sì, però dico, gli ultimi Jedi ha fatto, secondo me, un lavoro, per me ha fatto un lavoro migliore nel esprimere questo concetto del fatto che tutti sì, quanti possono essere... Comunque il direttore artistico è lo stesso, quindi in realtà cioè sembrano film scollegati perché il regista è diverso, però in realtà è una persona sola, no, anzi, sono un gruppo di persone sole che hanno diretto tutto. Sì, però cioè, ti dico, per me questo film è un passo indietro rispetto al messaggio di The Last Jedi, anche volendo averlo lo stesso, cioè anche volendo dire comunque non importa da dove vieni, questo comunque ha fatto un passo indietro perché appunto, come dici tu, per necessità di trama aveva bisogno di introdurre Palpatine come elemento, diciamo, centrale che collegava tutto. Ci sta, però boh, per me potevano fare una cosa molto diversa. Anche il fatto delle navi potevano gestire diversamente, non lo so, vabbè. Per me non è un'occasione un po' mancata, perché, vabbè, ripeto, a me è piaciuto molto gli ultimi Jedi, l'ho rivisto 3 volte e per me, nonostante i difetti, ma anche la scena che non esistono. Ok. Anche quei difetti di quelle scene che non esistono, però per me tutto quel film è... non lo so. Allora... quello che volevo che fosse questo, però. Va bene, allora io devo dire diverse cose. La prima cosa è che, vabbè, si vede parecchio che è J.J. Abrams che ha scritto la sceneggiatura e il dialoghista è un bambino di 3 anni, palesemente, cioè è un rincoglionito. Infatti i dialoghi fanno schifo e fanno quasi rimpiangere i dialoghi che fece George Lucas con Padme e Anakin, oddio, che erano oscene. Oddio, tu dici il 2? A qualsiasi, anche il 3 è imbarazzante dal punto di vista dei dialoghi, cioè nel senso no, se salva, i dialoghi fanno cagare, e se soprattutto tra loro due sono una roba imbarazzante. Poi J.J. Abrams, scusami, ormai li confondo, George Lucas lo sa che fanno cagare, però ha detto, vabbè, però il film funziona, in effetti il film funziona, e anche qua comunque fanno cagare, vabbè, e questo ci tenevo a dirlo. No, allora, mi dispiace anche a me un sacco che non abbiano dato spazio ai giovani, perché è assurdo, cioè... È assurdo che io debba andare a vedere lo stesso film che ho già visto, con gli stessi attori, che dice la stessa roba e strutturato. Poi, per l'amor di Dio, a me è piaciuto un sacco questo film, se evitiamo i dialoghi, cioè non diamo troppo peso ai dialoghi. Ovviamente io sono uno che guarda Fast and Furious, quindi non è che poi abbia... cioè, posso resistere anche a dialoghi scritti di merda. Che altro volevo dire? Ah, volevo dire che il sistema di shooting rispetto a The Mandalorian è un passo indietro. The Mandalorian ha reso il sistema di shooting di Star Wars, che prima era uno schifo, nel senso che gli Stormtrooper sparavano a culo e gli eroi sparavano dritto, l'ha reso umano. Cioè, in The Mandalorian quando, quando il mandaloriano spara e quando gli altri sparano, più o meno si cercano di colpire entrambi. Qua no, qua è rimasto, è ritornato totalmente a culo, nel senso che la gente palesemente spara in giro. Sì. No, è che molti mi hanno chiesto, ma gli Stormtrooper... No, mi hanno chiesto, hanno detto, ma gli Stormtrooper fanno ancora... Non si è ancora capito perché hanno l'armatura. E io ho detto, guarda, se guardi The Mandalorian, se guardi Rebels, il sistema appunto di shooting tra Stormtrooper e persone è normale. È solo qua, è solo in Star Wars che è una merda. Sì, solo la serie principale. È un peccato, perché ci sono tanti, tanti modi per, rendere, per renderlo non così evidente che loro sparano totalmente a culo. È un po' un peccato. E, volevo dire un'altra roba, ma mi sono scordato. Ma ti ha dato fastidio la botta sullo stomaco iniziale? Come diceva Andrea, che all'inizio del film ti danno due calci nello stomaco, così piano piano digerisci. Che cosa? Cioè, la scritta all'inizio, e poi vedi subito l'imperatore dopo un minuto di film. Ah no, a me è piaciuto. Vai digerendo subito. Tutti gli Star Wars sono un po' così. Ci sta. Cioè, tutti gli Star Wars sono un po' che ti buttano in mezzo, succedono mille cose tra un film e l'altro e tu dici, ma scusa, non potevate girare le altre mille cose? No, sono tutti così. Però qui continuano, cioè ogni scena è, ah sì, certo, ora hanno mille morti nere, ah sì, sì. Certo, dobbiamo prendere quello per andare lì, ah sì, certo. Cioè, beh, però se ti ricordi, tra il quinto e il sesto era, ehi, hanno costruito la morte nera. Sì, è vero, è vero. E ma ora il sesso non è... lo usano per sparare su un co... cioè tutto così. E, no, mi è piaciuto molto che tutte le parti di sceneggiatura fatte bene, cioè che avevano senso e che funzionavano, e sono palesemente prese da Rebels, come ho già detto. Cioè, se uno guarda Rebels, ritrova tutte ste minchiate: il pianeta dei Sith, lui che cerca l'Holocron per arrivare al pianeta dei Sith, e il fatto che ci sia una spia all'interno, il fatto che la spia sia il primo generale, il fatto che è tutto così, è tutto, è Rebels, è puro Rebels. È bello, Rebels funziona, mi piace. E basta, che altro? Niente, non... Ho detto due cose che mi sono ricordato che mi sono piaciute. Una è il generale nuovo, quello a capo di tutto. Mi è piaciuto molto, c'è una faccia molto anche da... Anche perché la tizia che fine ha fatto? La tizia... come cazzo si chiama? Phasma. Ah, è morta? No, io dico l'ufficiale, dico il... come si chiama? Sì. Il generale della tutta l'armata, quello nuovo. Quello che ammazza... Quello che ammazza la spia. Sì, sì, ho capito, ma lui non... Non so, ma lui non è nuovo, nel senso c'è già prima, nei vecchi, esatto. Vecchi film. Sì, cioè si vede, però mi è piaciuto, non lo so, mi è piaciuto il personaggio in questo molto, e anche in tutto il film mi è piaciuto molto Adam Driver, in ogni scena quasi. Secondo me, cioè, ha veramente carriato il film, diciamo, cioè, come personaggio, non lo so. Si conferma il migliore di tutta la trilogia per me personalmente. Sì, a me dispiace perché a me piaceva anche Rey, solo che veramente gli hanno dato il ruolo di handicappata. Cioè, lei è quella che dice no, perché io sono il male, no, io sono il bene, no, io sono il male, no, io sono il bene, io sono il bene. Cioè, ha rotto anche un po' le palle, onestamente. E, no, però in generale il film mi è piaciuto parecchio, anche perché le scene sono abbastanza... Allora, le scene più brutte e più imbarazzanti sono state spoilerate nei trailer, tipo loro che cavalcano sullo Star Destroyer. È una roba imbarazzante, ma tu lo sai perché hai già visto i trailer e quindi dici, sì. Ah, voglio proprio vedere quando... C'avevo Giulio di fianco che mi ha detto appena prima di cominciare il film, spero proprio che questa roba non sia come sembra. E dopo un po' ho detto, ecco i tuoi cazzo di cavalli, ecco i tuoi cazzo di Star Destroyer. Ma però tu lo sai e te l'aspetti. Io non riesco a dire il film che in generale, cioè, sia andato bene, cioè nel senso mi è piaciuto, però... Secondo me, allora, non è un film bellissimo, ma nessuno Star Wars è un film incredibile, a parte forse il quinto. E... per me il quinto e l'ottavo sono bei film in generale, cioè sono sì Però scrive. Ecco, io adesso ho letto, vabbè, le recensioni sono più o meno, cioè c'è chi lo ama e chi lo odia, come tutti gli Star Wars, dai, parliamoci chiaro, è sempre così. E io non capisco molte persone di cui ho letto e anche che mi hanno detto, che sono improvvisati esperti di Star Wars, e mi hanno detto questo snatura il significato del film. In realtà no, questo è semplicemente il sesto film, quindi non può snaturare il significato del film, anzi lo rende più grande, perché di fatto la resistenza è... ognuno di noi può fare resistenza. Però è Star Wars puro, cioè non c'è nient'altro, bene contro il male, resistenza contro impero, è il sesto film, punto. Sì, in quel senso sì, diciamo che a me delude il fatto che abbiano voluto inseguire un po' i fan, inseguire un po' la, diciamo, boh, la voglia di J.J. di un po'... modificare quello che era della serie, perché per me gli ultimi Jedi era appunto un'occasione per andare oltre questo, per parlare di altro, per andare in altri posti. E tra l'altro, se ci ripensi, fa ridere, perché J.J. Abrams ha sempre voluto nella sua vita fare Star Wars, quindi uno si immaginava che lui avesse chissà che idee, in realtà niente di eccezionale, mediocre e okay. Basta. No, però onestamente, ecco, è uno Star Wars, appunto. Non c'è poco da fare. Questo è Star Wars. I dialoghi di merda, il fatto che ti... sì, il fatto che ti mettano pupazzetti a culo e non ti spiegano da dove vengano, cioè il fatto che ci sia il pupazzetto che fa il meccanico e l'altra tizia, e la storia dietro Po che nessuno spiega, ma che magari potrebbe essere spiegata in un libro, in un fumetto, eccetera. È puro Star Wars. Star Wars. Esatto, Star Wars è così, è nato così. Oppure sì, esatto, 20 anni dopo fai un film su Han Solo che fa cagare. Queste cose qua. Devi proprio ricordarlo. È questo il significato del Natale. Esatto, questo è puro Star Wars. Star Wars nasce così, sono le guerre stellari girate con effetti speciali buoni, una trama mediocre e dei dialoghi orrendi. Quindi a me non piace Star Wars? Cioè i film che sono meno Star Wars mi piacciono? No, è che a te piace Star Wars, ma con questo film non hai ancora l'unione affettiva che hai con gli altri. Cioè Ah, ok. No, provi ancora lo stesso affetto, esatto, perché quando usciranno i Lego tu li comprerai. Cioè, no, ma io sono il primo, cioè io per esempio odio The Mandalorian e tutto ciò che rappresenta, ma appena uscirà Baby Yoda io lo comprerò, ma certo, quando uscirà Lego, tu ami The Mandalorian, è solo i primi due episodi che ti hanno fatto schifo. Gli ultimi, devo dire che sta un po' migliorando, nel senso che è più Star Wars. Cioè, appunto, ha dialoghi di merda, ma ha delle scene di guerra strane, palesemente girate, cioè con pessima sceneggiatura, ma ottimi effetti speciali. Insomma, guardate The Mandalorian. Guardate The Mandalorian. Voglio dire che non sono d'accordo a dare il punto a Salla per la scommessa. Perché? No, a Salla no, non è giusto. Anche perché... il film non finisce come Ritorno del Jedi. Cioè, tu questo hai detto, giusto? Io ho detto che finisce con io ho detto che finisce con la festa e poi i fantasmi che appaiono e salutano da lontano. Come Ritorno del Jedi. Che è esattamente quello che succede. Ritorno del sì, però la scena finale non è quella del Ritorno del Jedi, ma è quello della Vendetta dei Sith. Quindi non è vero. È vero. Però anche Ritorno del Jedi. La scena finale è su Tatooine con i due soli come su. Con i fantasmi che salutano, però. E io ho detto i fantasmi che salutano. No, tu hai detto il Ritorno del Jedi. No. Riascoltati la puntata. Comunque non è importante, intanto decido io che ti frega. Comunque, No. Un altro punto a Salla, no. No, mi dispiace Andrea perché ci avevi preso in realtà, cioè solo che a metà film gli incula il falco. Tra l'altro, scusate, volevo per chiudere il discorso, per esempio l'ultimo dialogo tra Lando e la tizia di colore cavallerizza, l'ex. che Yak mi ha detto, ma perché secondo te lo conosceva? Questo qui è puro Star Wars, è una cosa buttata lì, azzo, che non c'entra niente, che chissà, è puro Star Wars. Allora, decidiamo un attimo, quindi. Finale di turno energetico un po' ci potrebbe stare. Roba imbarazzante e inquietante per me ci sta, perché è tutto il film. Lando si riprende il Falcon pure ci potrebbe stare, però non è proprio il finale, diciamo. Cioè, non è che lui vedi che si riprende il Falcon. E non ha detto il ritorno dello Jedi, eh? Se riascolti l'audio, io dico, il film finisce con la festa e con i fantasmini che salutano. E tu hai detto, come ritorno dello Jedi, allora scriviamo però. Ritorno dello... Beh, quella è la scena prima, la festa. Ah, c'è la festa e poi ci sono i fantasmini che salutano, è quello che succede. Vabbè, la scena finale. Salla. Comunque non è un problema. Qual era la scommessa di Roberto invece da... La scommessa di Roberto era che gente morta ma finale è bello, che l'ha vinta proprio a mani basse, quindi... Vabbè, ma quello cosa vuol dire? Star Wars è per forza così. Però ci mancava poco che non morisse Kylo Ren. È morto Kylo Ren. No, però se non moriva... Ho detto ci mancava poco che non morisse, perché è morto. Che non morisse. Okay. E io speravo che non crepasse alla fine, perché avrebbe avuto più senso e avrebbe venduto più videogiochi. Più videogiochi e spin-off. Però l'ha fatto crepare, adesso ci saranno gli spin-off su Rey, cazzo, devo dire. Quindi Roberta ha un punto in più con gli ospiti, però adesso Sara deve decidere gli altri tre quanti punti e che punti si prendono. Allora, voi vi prendete mezzo punto e io metto un punto intero. Così la smettiamo di rompere. Che tiranno. Che tiranno, va bene. Guarda, io sto ringraziare perché ti avrei dato meno uno a questo punto. Che Palpatine. Andrea è ancora in... come si dice? È ancora avanti per questo 2019. Voi l'avete visto in lingua originale? No. Purtroppo no. Perché secondo me lui dice potere illimitato, però è tradotto diverso in italiano. Perché dice tipo potere incredibile, non mi ricordo, però diciamo nella scena finale? Cioè, quando comincia a sparare i fulmini in alto. Ma davvero? Vero? Sì, sì, sì. Mamma mia. Potere assoluto, ma scena, dice, una roba del ma genere. Ma la scena con Calendar cita pure la cosa dei poteri naturali che dice Anakin a un certo punto. E invece quando spara il fulminino mi sa che cita cosa? Ma... Cioè dice tipo ci avevano provato una roba del genere. La scena di Windu mi ha fatto veramente schifo, non lo so, è stata proprio brutta da vedere, non so voi come. Ma mi fa ridere perché lui fa uccidimi, e perché io mi aspettavo che lo uccidesse Kylo Ren, adesso cos'è, puro, vabbè. E mi aspettavo che Kylo Ren lo ammazzasse come nel Ritorno dello Jedi, perché lui, anche se è buono, alla fine si sacrifica la sua parte buona per rimanere, comunque... Non è proprio buona al 100%, invece no, e avrebbe avuto senso. Invece no, lui le dice uccidimi, lei dice no, e poi alla fine però lo ammazza. E quindi... No, lo fa ammazzare a se stesso. Non è vero niente. Eh sì, è come Mace Windu, cioè, è lui che si ammazza. Ma non è vero niente. Vedi, Sara, non hai capito, cioè queste sono sottigliezze che... Anche gli altri mi hanno detto così, ma non ha senso, cioè lei lo uccide lo stesso. Cioè non è che lei a un certo punto si ferma e dice no, gli devia via il fulmine e dice no, non ti ucciderò, no, lo ammazza. Avrebbe avuto più senso, come nel Ritorno della Jedi, che lo ammazzasse Skywalker, perché lui è buono ma in realtà si porta al fardello del male che ha commesso. Basta, niente, vabbè. Hanno snaturato Star Wars, è ovvio. Va bene, dai. E hai qualcos'altro di scommessone da dirci? Sto cercando l'aggiornamento delle uccisioni di Rambo, ma mi sa ancora niente. Va bene. Allora noi vi salutiamo. Buon Natale. E, di nuovo, buon anno. E ci vediamo il prossimo anno con un episodio che abbiamo già registrato e che è quello in cui mi insultano tutti. E... Basta. Ciao, ciao. Ciao.